Allora, eccoci qui, buonasera, un'altra puntata di Entropia Massima. Questa sera siamo con Maura e Rita dell'associazione A Sud e con loro parleremo dell'Atlante dei conflitti ambientali. Quindi lascio direttamente la parola a loro, anche perché io sono raffreddatissimo e è meglio che parlino loro. Prego. Grazie mille. Ciao, io sono Maura. Il mese scorso vi abbiamo raccontato dell'Atlante dell'economia circolare. Oggi invece parleremo di un altro Atlante che abbiamo lanciato invece circa 2 anni fa, che è quello dei conflitti ambientali. Che è una abbiamo mappa, una grande passione per gli Atlanti. Sì, decisamente. Gli Atlanti, le mappe, la georeferenziazione, insomma, ci interessano queste cose. È una mappa web georeferenziata che raccoglie in questo momento all'incirca 140 conflitti presenti sul territorio italiano. In realtà diciamo che è l'output, questo Atlante non è altro che l'output di un lavoro di ricerca che facciamo insieme al Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali da circa 10 anni, che è un Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali, è un centro studi indipendente aperto dall'associazione A Sud. Perché abbiamo deciso di far dei conflitti ambientali la nostra principale questione su cui soffermarci? Perché i conflitti ambientali sono un po' le lenti di osservazione della realtà. Da una parte infatti rappresentano quello che è il sintomo dell'insostenibilità di un certo modello produttivo, di un certo modello di sviluppo, di sfruttamento delle risorse. Dall'altra parte però, dal senso positivo della questione, è anche rappresenta un po' l'emblema della volontà popolare di partecipare alle decisioni delle decisioni che vengono prese poi all'interno dei territori. Quindi diciamo che da una parte sì, è una mappa dell'insostenibilità, ma dall'altra parte è anche una mappa della resistenza. Un piccolo inciso, giusto per capire di che cosa parliamo, quando parliamo di conflitto ambientale facciamo riferimento a un particolare conflitto sociale legato a una problematica di tipo ambientale, quindi devono coesistere 2 condizioni, da una parte la riduzione quantitativa o qualitativa di una risorsa ambientale, quindi dovuta dall'imposizione di un progetto proposto, imposto da una società, da una multinazionale, e dall'altra parte invece un'escalation di proteste da parte di residenti e quindi movimenti di opposizione. Se non mi ricordo male, l'altra trasmissione abbiamo parlato di Melendugno, dell'area in Salento, in Puglia, dove esatto, della TAP. Infatti la TAP è una delle vertenze, diciamo, che abbiamo seguito maggiormente durante quest'anno, e il conflitto della TAP è assolutamente presente all'interno dell'Atlante, che è possibile visionare al sito www.atlanteitaliano.cdca.it oppure direttamente dal nostro sito, che è www.cdca.it. Sono presenti 2 mappature, quella a sinistra è una mappa internazionale dei conflitti, quella a destra invece più nello specifico c'è un focus italiano. Ci sono appunto 140 casi all'interno dell'Atlante, tra cui anche la TAP, di cui appunto abbiamo già parlato la scorsa volta. Come Colleferro, di cui abbiamo parlato la scorsa volta. E tra l'altro anche dei 2 casi di cui parleremo oggi, che uno è quello di Centocelle e un altro invece ce ne parlerà Rita, ed è Intervisteremo un rappresentante della rete Stop Biocidio, che è una rete di comitati e associazioni attive in Campania, in particolare in Terra dei Fuochi, che tengono insieme un po' tutte le piccole vertenze territoriali di quell'area. Quindi diciamo in questo caso parleremo di più conflitti contemporaneamente. È una mappatura partecipata, il che significa che chiunque può inserire all'interno dell'Atlante il proprio conflitto, o comunque ci potete scrivere alla mail atlantecdca@gmail.com per qualunque informazione, ed è partecipata appunto perché noi preferiamo sempre che siano i comitati locali a inserire il conflitto piuttosto che farlo direttamente noi, un po' perché hanno una visione d'insieme nettamente migliore della nostra, perché vivono sul territorio, e dall'altra parte quindi perché hanno tutta una serie di informazioni che invece noi dobbiamo logicamente reperire, invece loro combattendo sul territorio o portando avanti la lotta riescono ad avere appunto questa visione d'insieme più complessiva. Nel momento in cui lo facciamo noi c'è sempre un lavoro diretto con le associazioni locali, quindi anche quando è il team di ricerca del CDCA che scrive una scheda c'è sempre una collaborazione diretta con le associazioni che se ne occupano. Ripetiamo cosa vuol dire CDCA? Centro di documentazione sui conflitti ambientali. Quindi il CDCA è una sorta di accentratore di dove poter presentare, diciamo, dove poter parlare del conflitto che si sta vivendo. I comitati locali possono presentare la loro problematica e voi fate un po' da cassa di risonanza oltre a interfacciarvi, esatto, direttamente con loro. Esatto, sì, l'intento poi quello dell'Atlante, uno degli intenti dell'Atlante è anche quello di provare a colmare quel vuoto informativo che molte volte c'è su queste questioni, o comunque provare a dare un racconto più verosimile di quello che succede sui territori, perché nel momento in cui sono le realtà stesse che raccontano quello che succede, probabilmente c'è un racconto del conflitto che è più simile, diciamo, a quello che succede nel reale. Vi parlato prima della questione della TAP. È curioso che in molte occasioni, soprattutto quando è scoppiato il caso TAP a marzo, per esempio, la maggior parte dei giornali o comunque delle trasmissioni parlavano del problema della TAP soltanto in relazione alla questione degli ulivi, ridimensionando invece la portata storica che il comitato No TAP porta avanti da circa 6 anni, quindi bisogna anche fare attenzione al modo e al modo in cui si racconta un conflitto, perché parlare della TAP soltanto in questi termini logicamente si trascurano invece tutta una serie di impatti ambientali, sanitari che questa infrastruttura potrebbe portare sul territorio. Ma oltre a questo, diciamo, oltre a questo scopo ce ne sono altri, e uno di questi è per esempio il fatto di poter fare rete tra le varie associazioni che ci sono sui territori. E questo appunto è importantissimo, perché molte volte un conflitto locale è soltanto legato, diciamo, a un problema connesso con una problematica più di ampia scala, e quindi magari legato a una politica nazionale che poi invece si ripercuote sul singolo territorio. Penso sia la questione per esempio del gas e quindi sempre della TAP, ma anche per esempio la questione degli inceneritori, il fatto che ci sia una politica nazionale che incentivi questo tipo di gestione di rifiuti fa sì che ci sono in tantissimi territori dei conflitti legati alla questione degli inceneritori. Quindi è giustissimo che ci siano dei conflitti territoriali sul territorio, che quindi che ci sia una popolazione locale che si ribella su queste questioni, ma allo stesso tempo è importantissimo che facciano rete per portare un'istanza al governo centrale, quindi affinché ci sia in qualche modo una un'istanza collettiva al fine di rottare o comunque di cambiare quelle che sono le politiche nazionali a livello centrale. Immagino quindi che fare rete su una stessa tematica poi sia anche utile per avere una modalità di lotta comune, diciamo, esatto, per mettere in a confronto le varie esperienze, i vari successi, come sono stati ottenuti, se funziona da una parte potrebbe funzionare anche da un'altra se la tematica è la stessa. Esatto, è anche un modo per potersi scambiare degli strumenti. Quando parlavamo della TAP, per esempio, il comitato No TAP ha acquisito un bagaglio informativo sulla questione lavorandoci da 6 anni, che immagino che un nascente comitato su una questione su un gasdotto che deve nascere in questo momento, se parla con Gianluca Maggiore, che è il portavoce No TAP, probabilmente potrebbe dargli tutta una serie di informazioni su le azioni da fare, su con chi interfacciarsi per tutta una serie di questioni, che è facile, diciamo, che ci sia questo scambio informativo che potrebbe essere utilissimo per le varie vertenze territoriali. Quindi se un comitato vuole mettersi in contatto con voi, entrare in rete con Assud, con il CDCA, può contattarvi l'indirizzo che vi ho detto prima. Sì, può sia scriverci l'indirizzo email che è atlantecdca@gmail.com e sia se invece vuole inserire direttamente la scheda può direttamente iscriversi sul sito dell'Atlante, c'è un procedimento insomma ben intuibile da fare, appena appunto basta andare sul sito atlanteitaliano.cdca.it e può direttamente inserire il conflitto. E, ci sono tutte le indicazioni e comunque per qualunque problema si può scrivere direttamente a questa mail. Perfetto, allora abbiamo presentato un po' la trasmissione di oggi. Dopo la prima pausa musicale parleremo con il Comitato per il Parco Archeologico di Centocelle qui a Roma, qui vicino da noi, e quindi a tra poco. Francesco, sciogli là, ricominciamo tutto da capo, riproviamoci. È come in una storia d'amore, certe volte bisogna fare tabula rasa per potersi ancora scegliere. Francesco, sciogli là. Sono passati 2000 anni, è iniziata l'era dell'acquario, è finita quella dei pesci. Siamo di fronte a una situazione mai vista prima, siamo di fronte a una fine o a un inizio. La vita è tutta da riconquistare, la vita è tutta da salvare, da ripensare, da reinventare. Francesco, sciogliela. Sono successe troppe cose brutte, ci vuole un segnale importante, importante veramente. Lo vedi come abbiamo combinato il pianeta? Contano solo i soldi, conta solo il potere. Non c'è amicizia, non c'è grandezza e non c'è amore. Sovrappopolazione, distruzione ambientale, ingegneria genetica, guerre per il possesso delle ultime risorse naturali. La democrazia è ridotta una maschera, la speculazione che si mangia il mondo. Passano come nuvole di cavallette e non resta più niente. E si guardano bene dal dire come stanno le cose, che pensano solo ai loro interessi, che se ne fregano, che ci vogliono tutti fessi, presuntuosi e nemmeno contenti. Che siamo naufraghi nello spazio, su questa goccia di terra persa. E se vogliamo ancora vivere, si deve inventare una nuova vita. Francesco, sciogliela. Certe volte bisogna fare delle cose impossibili, perché abbiamo visto dove ci hanno portato quelle possibili. Bisogna pensare quello che non è mai stato pensato, fare quello che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare. Bisogna cambiare il nostro cervello, il nostro spirito, il nostro cuore. Ci vuole un gesto che nessuno ha mai fatto prima, di morte e di resurrezione, per indicare a tutti un'altra strada, a tutte le donne, a tutti gli uomini, a tutti i bambini, agli stati, ai governi, alle istituzioni. La salvezza non arriverà dalla politica, dall'economia e dalla tecnica. La salvezza non arriverà dalle forze maschili e razionali, che da secoli si oppongono a quelle femminili e spirituali. Ci vuole qualcuno che parte per primo. Francesco, ma veramente non ci hai pensato mai? Nemmeno quando sei solo a letto come tutti gli altri, in pigiama, in mutande e sbadigli. Pensaci, almeno come a una fantasia, almeno come a un chissà come sarebbe. E magari portati questo pensiero nei sogni, così potremmo fare tutti lo stesso sogno, così potremmo stare tutti nello stesso sogno, così potremmo svegliarci insieme, dopo esserci incontrati e riconosciuti, dentro la massa elettrica e spirituale dei sogni sognati di tutti. Fill it with my warmth. Allora, eccoci di nuovo in voce. Abbiamo ascoltato due canzoni invece che una. Abbiamo avuto qualche piccolo problema a prendere la linea al telefono. La prima era Giovanni Truppi, Lettera a Papa Francesco, la seconda i Black Sabbath con Paranoid. Quindi adesso siamo in linea con Luca Scarnati del Comitato per il Parco Archeologico di Centocelle. Luca, ci senti? Sì, vi sento. Perfetto. Mi sento un po' lontani a dire il vero, però insomma mi sento. Perché siamo lontani, ecco. Da Centocelle, Luca. Bene, ecco, ora mi sento meglio. Perfetto. Allora. Ok. Allora, il conflitto di Centocelle è uno dei conflitti che anche come a Sud stiamo provando a seguire sul territorio, e però diciamo che lasciamo la parola a Luca per farci spiegare quali sono le principali problematiche ambientali che riguardano il parco di Centocelle. Quindi lascio la parola a te, Luca. Sì, ciao, grazie. Allora, guarda, giusto ora direi che fa un anno da quando è nata la questione Parco di Centocelle, almeno per questo comitato, perché un anno fa, all'inizio di gennaio, da un'area del Parco di Centocelle chiamata il Canalone, sono cominciati a venire fuori dei fumi maleodoranti. E sono arrivati i vigili del fuoco, è arrivato il comune, insomma praticamente alla fine è venuto fuori che c'era un accumulo di rifiuti che erano entrati in combustione chimica e che sviluppavano dei gas verosimilmente nocivi. E a questo punto questa cosa si è sentita molto, cioè quello proprio l'odore, cioè la puzza di questi fumi in tutta l'area intorno al parco, soprattutto nel tratto via di Centocelle, via Casilina, e insomma quindi i cittadini hanno cominciato un po' a mobilitarsi, e quello che si è capito è che l'unico sistema per almeno interrompere questi fumi era quello di smassare tutti questi rifiuti. Quindi a quel punto il Comune di Roma è intervenuto e ha smassato, cioè ha sparso praticamente un po' ovunque questi rifiuti in modo che non si compattassero e non entrassero di nuovo in combustione chimica. Da lì è venuto fuori che questi 126 ettari destinati a parco sono in buona parte ancora da realizzare, cioè solamente un terzo circa, 33 ettari circa, sono effettivamente realizzati. Tutto il resto è ancora inutilizzato, non è usufruibile per i cittadini, ma sostanzialmente è pieno di rifiuti di varia tipologia. E niente, purtroppo, e non solo di rifiuti, una parte è proprio occupata fisicamente da un certo numero di autodemolitori, di sfasciacarrozze, che sono lì da tanto, ma che anche da tanto sono stati teoricamente destinati a altre sedi, cioè devono essere delocalizzati, spostati in aree a vocazione industriale e non in piano centro abitato, dove sono pericolosi, perché comunque per esempio quest'estate una è andata a fuoco, per dire. E niente, la situazione è questa. Il comitato si è dato da fare sia per la questione della bonifica, quindi dell'eliminazione di tutti questi rifiuti, che proprio per la realizzazione del parco. Quello che Roma Capitale ha fatto finora è stato poco o forse addirittura nulla, perché da un anno aspettiamo ancora quella che noi ormai siamo entrati nel tecnico un po', perché stando dietro a queste questioni abbiamo imparato tante cose, e la caratterizzazione dei rifiuti, cioè loro prima di allontanare tutti questi rifiuti devono capire che tipo di rifiuti sono, in modo tale che possano essere smaltiti opportunamente, cioè ognuno al suo posto, rifiuti speciali, rifiuti, tutto quello che trovano deve essere classificato. E questa cosa che era stata promessa per la fine di marzo del 2017, fra un po' facciamo un anno e ancora sta lì. L'unica cosa che sono riusciti finalmente a fare è a fare un affidamento diretto per 39.000 euro più IVA al Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza per questo famoso piano di bonifica. E tutte cose che ogni tanto ci raccontano, il quinto municipio ogni tanto organizza assemblee pubbliche in cui ci racconta la sua versione dei fatti e quello che stanno facendo. Poi in realtà da lì a capire veramente cosa succede, ogni volta dobbiamo fare l'accesso agli atti, contattare consiglieri municipali, regionali, insomma cercare di avere informazioni più concrete. Appunto, abbiamo visto alla fine la determina che porta a questo piano di caratterizzazione, questo contratto con l'università, e pure lì non è che, cioè, manca ancora un bel po', nel senso che il contratto c'è, ma ci vorranno ancora altri mesi, quindi è tutto sostanzialmente molto lento, se non quasi immobile. E diciamo che comincia anche a essere un po' faticoso, nel senso che più di un anno uno sta dietro a questa questione, insomma è abbastanza impegnativo. Poi siamo tutti, insomma, cittadini, persone che, insomma, fanno anche altro nella vita, ci siamo dovuti improvvisare geologi, idrogeologi, legali, cioè un po' di tutto, abbiamo dovuto approfondire un po' le nostre conoscenze, capire come anche arrivare ad avere informazioni dalla pubblica amministrazione tramite magari appunto gli accessi civici, in un clima di poca collaborazione da parte del, diciamo, quantomeno di Roma Capitale, che attualmente è la principale responsabile, insomma, della gestione del sito. C'è poi un altro dato rispetto proprio alla problematica ambientale. Durante le analisi fatte dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio, subito dopo questa questione appunto del canalone, della combustione chimica, è venuto fuori dall'analisi delle acque dei 3-4 pozzi che sono all'interno dell'area del parco che anche la falda è inquinata, tanto che è stato è interdetto l'uso dell'acqua di questi pozzi per qualsiasi uso, e così come peraltro è interdetto proprio l'accesso a tutta un'area del canalone. Pozzi sono, sì, nell'area vicino agli sfasciacarrozze o nell'area già bonificata? Cioè è tutta la falda che ha che è risultata inquinata, tutta la falda. I pozzi, per la precisione, sono uno sono sostanzialmente nella zona via Casilina, angolo via Centocelle, sono vicino alle case dell'Ater, sono per lo più situati lì, e sono praticamente, da un punto di vista idrogeologico, sono a valle rispetto agli sfasciacarrozze. Diciamo, è tecnicamente molto complesso definire, cioè dire che al 100% la responsabilità dell'inquinamento della falda sia degli autodemolitori, ma è assolutamente la cosa più improbabile, sia per il tipo di inquinanti che sono stati trovati e sia appunto per la collocazione degli autodemolitori su via Palmiro Togliatti rispetto al flusso idrogeologico, cioè sotterraneo, insomma. E ora tutta la parte, diciamo, canalone, rifiuti, cioè la bonifica, come dire, dei rifiuti sparsi per il parco compete a Roma Capitale. Per quanto riguarda la questione della falda, che è, diciamo, un po' più complicata perché è di più difficile soluzione, se non forse irrisolvibile, nel senso che la prima soluzione sarebbe in assoluto eliminare la fonte dell'inquinamento, cioè quindi gli autodemolitori, è un po' più complicata, è attualmente in mano alla quella che è l'ex provincia di Roma, città metropolitana di Roma Capitale, all'ufficio bonifiche, perché per legge il testo unico sull'ambiente compete a loro fare le indagini e la caratterizzazione, le indagini su chi ha inquinato e la caratterizzazione del tipo di inquinanti. Ora, quando noi li abbiamo interpellati, hanno detto sì, effettivamente compete a noi, prima o poi lo faremo, ma la legge non dà dei termini, cioè dei termini di tempo, magari ci penserà la magistratura, vediamo, quindi pure loro sono, come dire, siamo a caro amico, insomma. Va anche detto, la questione della falda è meno, cioè non è che questi pozzi siano mai stati utilizzati effettivamente, quindi al di là del problema strettamente ambientale rispetto alla fruizione del parco, la questione della falda può essere considerata un po' secondaria, mentre tutta la questione dei rifiuti interrati è grossa perché impedisce la fruizione proprio del parco, perché appunto delle aree sono state interdette e soprattutto quello si chiama parco archeologico perché sotto ci sono almeno 3 ville romane di una certa appunto entità. Luca, se magari ci specifichi meglio anche questa parte del vincolo archeologico che non è mai stato praticamente rispettato, anzi il parco ospita, come dicevi tu, una serie di autodemolitori in tutto il suo perimetro, che è abbastanza grave anche considerando il valore storico e culturale di quello spazio. Allora guarda, la questione dei vincoli in generale la vincolistica è un tema complesso anche per chi se ne occupa direttamente. Io diciamo quello che noi abbiamo sostanzialmente capito è questo. Allora, a un certo punto, adesso purtroppo mi sfugge esattamente quando, facciamo conto nel 90 più o meno, ma forse anche prima, tutta quell'area per arrivare però fino anche a Villa Gordiani, quasi insomma un'area abbastanza estesa, viene sottoposta a un vincolo Las Duas Lauros. È un vincolo di tipo diciamo archeologico, e che cioè un vincolo per cui, in virtù di tutta una serie di presenze archeologiche rilevanti, viene istituito un vincolo specifico con un decreto ministeriale apposito, che è un vincolo di tipo paesaggistico dovuto alla presenza di beni archeologici. Questo è l'unico vincolo esteso su tutto il territorio che noi possiamo rilevare nel piano territoriale regionale, cioè nel senso la vincolistica si evince dal PTPR, uno va là e vede che tipi di vincoli sono su quel territorio. Questo è il vincolo che viene rilevato, che è un vincolo grosso comunque, cioè vuol dire che se tu per metterci mano a qualsiasi cosa devi chiedere tutta una serie di autorizzazioni alla sovrintendenza. Ci sono poi dei vincoli puntuali, cioè legati alla presenza di specifici manufatti, anche quelli sono stati diciamo dichiarati con decreto ministeriale. Questi nel PTPR non si trovano, ma in realtà esistono, noi li abbiamo ritirati fuori, e sono legati alle 3 ville e all'osteria di Centocelle, che è un rudere che sta ad angolo tra Togliatti e Casilina. E però sono importanti perché comunque hanno diciamo tutta un'area di rispetto anche in cui dovresti, come dico, anche là qualsiasi cosa fai o non puoi fare proprio niente, o quello che fai lo devi fare in seguito a tutta una serie di autorizzazioni. E il punto è che però quando è stato creato Las Duas Lauros, in realtà gli autodemolitori c'erano già. Infatti questo volevo dirti, io abito in quella zona da prima del 90, e mi ricordo la presenza degli autodemolitori già prima del 90, quindi loro sono lì in maniera regolare, nel senso che quando sono sorti, quando hanno avuto la concessione, il vincolo non esisteva. Il problema giustamente è sorto successivamente, cioè sorge adesso, negli ultimi 30 anni, che però evidentemente non è ancora stato risolto. Una questione simile, sempre per rimanere nel quadrante di Roma Sud-Est, si ha nel Parco dell'Appia Antica. Anche al Parco Regionale dell'Appia Antica ci sono degli autodemolitori che non si riesce a delocalizzare, nonostante sia un parco regionale, parco archeologico, insomma. Quindi è un problema non solo del parco di Centocelle, ma di buona parte di Roma Sud-Est. Sì, no, questo te lo confermo, è assolutamente vero. Va detto che il punto, cioè, non so come dire, nessuno ce l'ha con gli autodemolitori per principio, questo sia chiaro, nel senso che comunque è un'attività sostanzialmente di riciclo di materiale, quindi è un'attività lodevole. Il problema è che da 50 anni fa ora sono anche fortunatamente stati elevati gli standard diciamo ambientali, per cui per esempio nel parco della Caffarella 2 autodemolitori sono a questo punto sotto processo perché sono stati riconosciuti responsabili anche lì dell'inquinamento della falda, per cui diciamo insomma ci sono autodemolitori che hanno degli standard ambientali elevati e ne sostengono i costi e che sono, come dire, da lodare, insomma. Poi ce ne sono altri, come alcuni di quelli che troviamo nel parco, che francamente basta dargli un'occhiata e capisci che parliamo proprio di un'altra cosa, insomma. Dopodiché la responsabilità è di Roma Capitale, perché comunque sono loro che devono fare, comunque aprire un tavolo in cui trovare una soluzione per dove metterli, perché pure loro, non è che molti di loro dicono no, ma noi ce ne andiamo, ma dateci un posto, ma mi sembra una cosa assolutamente comprensibile, però è una cosa che deve essere fatta a un altro livello, eventualmente coinvolgendo anche la regione, questo non lo so, però è chiaro che la responsabilità è di Roma Capitale, tanto è vero che è proprio Roma Capitale che a luglio ha prolungato di un altro anno la deroga a questi autolimonitori al rimanere là, perché loro sono tuttora in deroga. Ma non è una deroga, diceva, proviamo per un anno e nel frattempo troviamo una soluzione. A luglio ormai è arrivato quasi e non hanno fatto un passo per trovare una soluzione. Va bene, Luca, quindi Luca, insomma, la prospettiva è, non è delle migliori. Luca, sì. Allora ricordiamo l'appuntamento, i prossimi appuntamenti del PAC. Sì, questa cosa del 10. Sì, io ti sento un po' lontana, comunque vabbè, il 10 di questo di febbraio noi abbiamo organizzato con lo spazio occupato, lo spazio sociale 100 celle aperte, appunto a 100 celle, una serata di sensibilizzazione e informazione sulla questione del parco, utile anche a un po' di, diciamo, a un minimo di raccolta di fondi, che comunque insomma qualche spesa anche poi per sostenere le iniziative dentro il parco ce l'abbiamo, insomma. E quindi niente, invito, diciamo, tutti, ovviamente è verso l'ora di cena, con cena annessa, insomma, e invito tutti quanti a partecipare. Ok, perfetto. Allora, io ti ringrazio per aver partecipato. Sì. Dico giusto due cose io. Noi come Assud, come CDCA, tra le varie attività che stiamo svolgendo, abbiamo anche scritto e vinto un progetto per fare delle analisi ambientali al Parco di Centocelle, quindi per provare a fare delle analisi indipendenti. Abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni necessarie al comune e siamo in attesa del responso per procedere, quindi utilizziamo anche questo spazio radiofonico per provare a fare pressione affinché ci rispondano al più presto. Ti ringrazio, Luca, immagino ci sarà la prossima canzone e poi parleremo con altri comitati. Va bene, grazie a voi e alla prossima. Allora, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Holding. E allora eccoci di nuovo in voce. Prima di parlare con il prossimo ospite, prendere la prossima telefonata, volevo ricordarvi che la radio non campa d'aria, Radio Onda Rossa non campa d'aria, e se volete effettuare una sottoscrizione, il codice di corrente postale, il conto corrente postale è il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 01. E oppure andate, poi potete sempre andare sul sito www.ondarossa.info, oppure venire a trovarci in sede a Via dei Volci 56 a San Lorenzo. Quindi adesso siamo in linea con un altro contatto e lascio la parola a Rita. Raniero, ci senti? Sì, adesso sì. Perfetto, allora siamo in linea con Raniero di Stop Biocidio. Stop Biocidio è una rete di associazioni, comitati e attivisti singoli che si impegnano nei territori campani, in particolare in Terra dei Fuochi, ma in tutti i territori campani interessati da conflitti ambientali. Intanto, Raniero, io vorrei con te proprio spiegare perché ci chiamiamo, cioè perché la rete si chiama Stop Biocidio. Cosa intendiamo quando diciamo biocidio? Perché il biocidio l'abbiamo praticamente inventato noi. Quindi magari cominciamo a spiegare questo. Sì, vabbè, innanzitutto buonasera. Vabbè, biocidio, quindi di riflesso stop biocidio, è diciamo un termine, una definizione che diciamo, viene immaginata dai comitati nel 2013, quando appunto forse per la prima volta si provano a mettere insieme tutte quelle che erano le vertenze ambientali in Campania, quindi unire in qualche modo gli aspetti legati alle mobilitazioni contro il ciclo di smaltimento di rifiuti, il ciclo legale, quello che noi definiamo legale, ma che in realtà di legale e di giusto ha ben poco, ma in ogni caso il ciclo di smaltimento di rifiuti legato diciamo alle decisioni dello Stato e le battaglie relative alle battaglie connesse al ciclo illegale dello smaltimento dei rifiuti, quindi tutto quello che ha a che fare con i traffici di rifiuti industriali e tossici, e quindi a terra dei fuochi. Insieme a questi due aspetti, appunto, in quel periodo si univano anche i comitati che si battevano, si erano avvicinati alle questioni ambientali nei termini della battaglia alla devastazione, le emergenze sanitarie connesse alla devastazione ambientale. Quindi parliamo di biocidio in questo senso, appunto, mettendo insieme gli aspetti sanitari, gli aspetti sociali, gli aspetti e gli aspetti ambientali, andando ad identificare quello che stava succedendo, quello che sta succedendo e stava succedendo in Campania come appunto biocidio, distruzione della vita. L'idea nasce dalla lettura di alcuni studi medici, per lo più, nello specifico Tony Giordano, oncologo napoletano, ma che studia negli Stati Uniti, ci aveva illuminato rispetto al fatto che alcune malattie sembravano bucare il DNA dei campani, quindi dei bambini nascevano già morti, no? Nascevano già già ammalati, avevano pochissimi mesi, pochissimi anni di vita, per cui era questo il nostro biocidio, era l'uccisione della vita prima ancora che avesse modo di dimostrarsi. Allo stesso tempo è chiaro che la regione Campania aveva un assassinio nei termini, cioè un omicidio nei termini del un attacco nei termini del sistema sociale e sanitario. Basta pensare che gli ospedali in Campania non erano e non lo sono ancora in grado di rispondere a quella che è l'emergenza terra di fuochi, a quella l'emergenza tumori su questo territorio, e questo aspetto veniva particolarmente messo in luce dal fatto che i comitati delle, diciamo, delle le associazioni delle mamme della, della Terra dei Fuochi erano nate, diciamo, nella loro fase iniziale, erano, cioè, le mamme si erano conosciute per lo più al, al Gaslini di Genova, perché i bambini che morivano in Terra dei Fuochi, cioè che si ammalavano in Terra dei Fuochi, non avevano la possibilità di curarsi in Campania, per cui, perché in Campania c'erano delle, delle liste d'attesa lunghissime, e quindi veniva suggerito di andare al nord a curarsi. Beh, questo, tutto questo insieme abbiamo provato a descrivere con un, un'unica parola, che appunto, come diceva Rita, è biocidio. Di conseguenza nasce diciamo Stop Biocidi. Sì, che sostanzialmente, cioè, è la distruzione consapevole, quasi volontaria, della vita di un'intera regione da tutti i punti di vista, come dicevi tu, è sanitario, è economico, è sociale, è ambientale, è tutto. Ora, da questo punto di vista però, a me piacerebbe che noi ripercorressimo anche poi l'altra faccia di questa medaglia, al di là delle battaglie e delle mobilitazioni sulle quali magari veniamo tra un po', invece la parte istituzionale. Cioè, il punto è, mentre succedeva tutto questo in Campania, al di là del ciclo legale, che come dicevi tu prima di legale ha ben poco, ma mentre qualcuno faceva il bello e il cattivo tempo sulle vite dei campani semplicemente per arricchirsi, le istituzioni dove erano e cosa facevano? Diciamo la storia del, del biocidio, appunto della devastazione ambientale e sociale in Campania, diciamo, racconta bene quello che è stato il ruolo dello Stato in, in questa, diciamo, in questa storia, la, in questa vicenda. Basta pensare diciamo a quello, a una delle, diciamo, delle, forse dei momenti clou della, della vicenda, nel senso, quando nel, nel 2013 vengono decretate le dichiarazioni di Schiavone, diciamo, viene a galla tutto, forse, un universo mondo rispetto alla gestione del, dei rifiuti industriali. Dico questo perché quelle dichiarazioni erano dichiarazioni che erano state appunto segretate, era stato posto il segreto istituzionale già nel 1997. Diciamo, e tra l'altro da Giorgio Napolitano, ministro degli interni, ricordiamocelo. Esattamente. E quindi, cioè, questo ci racconta di un diciamo, di uno Stato diciamo, consapevole e consapevolmente assente, diciamo, dalla, dalla, dalla vicenda della devastazione ambientale in Campania. Ma questo è solo un aspetto, forse quello che diciamo, fa più male, ma basta pensare anche, diciamo, forse un altro aspetto connesso all'altro, l'altro grande filone della devastazione, quello che tu, cioè, che dicevamo essere il ciclo di smaltimento legale dei rifiuti. Diciamo, lo Stato assume un ruolo di diciamo, di quasi facilitatore tra diciamo, di broker finanziario, broker economico lo chiamerebbero in questo momento, cioè lo Stato connette la, la grande domanda di smaltimento a basso costo dell'industria, per lo più settentrionale, perché l'industria al nord si sviluppano le più grandi industrie del, del paese, e diciamo, la, l'offerta di smaltimento allo stesso a basso costo offerta dalla, diciamo, dalle organizzazioni mafiose e camorristiche a Sud Italia, in Campania prima di tutto. Cioè, c'era questa necessità, perché ci ricordiamo, diciamo, è evidente che il sistema industriale italiano è un sistema tecnologicamente molto molto arretrato, che si trova a competere con diciamo, in un mercato che è quello europeo, dove ha bisogno di diciamo, di ammortizzare i costi dello, diciamo, dello smaltimento e di quel, della, della produzione, risparmiando sullo smaltimento dei rifiuti. Cosa fa per ammortizzare questi costi? Sceglie di, diciamo, di destinare una porzione di territorio, che è quella del Sud Italia, quella della colonia interna a questo paese, allo smaltimento dei rifiuti a basso costo. Come succede questo, diciamo, questo fenomeno? Diciamo, c'è questo tipo di ruolo dello Stato, diciamo, ce lo spiegano benissimo le inchieste relative al, alle gare di appalto per, diciamo, per la costruzione dell'impiantistica. Nel, diciamo, nei, alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, già diciamo, il governatore Rastelli, ma poi successivamente Bassolino, assumono il ruolo di commissari straordinari al, all'emergenza rifiuti, diciamo, questo è un altro aspetto, diciamo, in cui lo Stato, con cui lo Stato si impone, però nel ruolo di prima di governatori e poi di commissari straordinari all'emergenza rifiuti, loro diciamo, tengono le redini del gioco attraverso la costruzione dei bandi per l'affidamento dello smaltimento dei rifiuti. Bene, in quel diciamo, in quel contesto succede una cosa molto particolare, nel senso che il bando diciamo, affidava in project financing la costruzione di tutti gli impianti e la, diciamo, la gestione dello smaltimento dei rifiuti per in regione Campania. Quel bando prevedeva una serie di condizioni diciamo, tra cui anche, diciamo, che durante la fase di costruzione degli impianti necessari allo smaltimento, quindi gli inceneritori, gli stivi, i centri di compostaggio erano previsti all'epoca, diciamo, durante questa fase l'ente aggiudicatario, quindi chi vinceva l'appalto, avrebbe dovuto garantire lo smaltimento dei rifiuti a spese proprie. Bene, diciamo, questa regola del bando viene modificata a bando già chiuso, diciamo, su suggerimento dell'Associazione Bancaria Italiana, che impone di fatto al governatore e commissario all'emergenza rifiuti di inserire due clausole. La prima è che diciamo, questo smaltimento diciamo, non dovesse essere pagato, ma c'era la possibilità di accumulare diciamo, i rifiuti, ed è un po' la storia con cui nascono le ecoballe, cioè appunto la possibilità di accumulare rifiuti in balle per poi essere smaltiti negli impianti di incenerimento, che sarebbero stati poi costruiti solo nel 2004. Chiaramente rifiuti stoccati in balle, di cui poi tutti conosciamo la storia e che stanno ancora ad inquinare ampie zone del territorio napoletano, perché sono state chiaramente riempite non solo con rifiuti urbani ma anche con rifiuti industriali. E soprattutto impone l'Associazione Bancaria Italiana, su suggerimento dell'Associazione Bancaria Italiana, viene imposto diciamo, l'obbligo di non superare una certa percentuale di differenziata, perché lo Stato in qualche modo garantisce all'ente vincitore della gara d'appalto quella di poter diciamo, guadagnare sulla combustione dei rifiuti e quindi sulla rivendita a prezzo agevolato dell'energia così prodotta. Diciamo, perché diciamo, lo Stato assume un ruolo particolare in questo caso, non solo perché aveva cambiato un bando a le regole del gioco a bando chiuso, ma soprattutto perché l'unica azienda che era riuscita diciamo, che c'è, cioè, l'azienda che poi vince la gara d'appalto, era l'unica azienda che aveva presentato un'offerta sostenibile dal punto di vista economico, sapendo le regole cambiate. In questa associazione, cioè chi vince l'appalto è un'associazione di imprese al cui capofila c'è FIB e c'è Impregilo. Esatto, diciamo, perché poi il punto è proprio Impregilo. Questa in realtà è una trasmissione che è partita dalla presentazione dell'Atlante. Una delle funzioni, dei dati di utilità dell'Atlante è anche questo, che tu quando vai ad analizzare un conflitto in realtà puoi anche guardare quali sono le imprese responsabili di quel conflitto, e Impregilo è una delle più menzionate nell'Atlante. Però al di là di questo, Raniero, visto che purtroppo ci restano soltanto veramente 4 minuti, sarebbe bello e in realtà sarebbe importante parlare di molte altre cose, dell'atteggiamento del presidente De Luca, della negazione ancora costante del biocidio, dei dati drammatici sanitari in Campania. Però secondo me è meglio se invece ci lasciamo parlando di cose belle. Cosa succede nel 2013 dopo le dichiarazioni di Schiavone? Eh beh, più o meno l'accennavo prima. Sì. Nel 2013 diciamo, si riesce forse per la prima volta a mettere insieme tutti i pezzi della devastazione ambientale in Campania e a costruire fronte comune rispetto alla, diciamo, all'opposizione, alla mobilitazione contro quello che abbiamo appena definito biocidio. Diciamo, già dal settembre 2013 decine di migliaia di persone si organizzano per scendere in piazza in tutti i comuni della provincia di Napoli e di Caserta, fino a poi ad arrivare diciamo, attraverso un lungo processo di interrogazione e di scrittura comune di una piattaforma diciamo, rivendicativa nei confronti dei comuni, della regione, dello Stato e dell'Europa, diciamo che teneva dentro tutte le esigenze, cioè, che del, diciamo, del territorio, diciamo, e fino ad arrivare appunto alla mobilitazione del 16 novembre, in cui scesero in piazza a Napoli 150.000 persone. Beh, è caduta la linea, la completo io. Eravamo in 150.000 in piazza a Napoli con una piattaforma che comprendeva le proposte praticamente di tutti i comitati territoriali campani, che era stata scritta di comune accordo con tutti e metteva d'accordo centinaia e centinaia di realtà. Quella piattaforma è stata disattesa dal primo momento. Se la base proprio metodologica che la piattaforma poneva era sostanzialmente non trattate questi come una questione emergenziale, perché non è un'emergenza, e immediatamente dopo, nell'arco di pochi mesi, è arrivata la legge speciale terra dei fuochi con tutto quello che ne è conseguito. Con questo amaro epilogo, a questo punto ci salutiamo e ci diamo appuntamento a tra un mese, quando saremo di nuovo ospiti in trasmissione, magari vi raccontiamo cose più allegre. E quindi con questo concludiamo questa trasmissione di Entropia Massima con a Sud e il centro di documentazione dei conflitti ambientali. Torneremo tra un mese. Invece Entropia Massima torna come sempre tutti i lunedì a partire dalle 8 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E quindi buonasera, una buona serata a tutti e a tutte, in particolare a coloro che sono in una cella di un carcere, privati delle proprie libertà personali. Quindi adesso la sigla e poi vi lasciamo alla programmazione Radio Onda Rossa.